io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro. Anche di Solo Vinili Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ventuno e dieci minuti primi, ritorniamo in voce. Dopo Allegro con fuoco, la trasmissione di musica classica di Radio Onda Rossa. Anche noi come Allegro, come per Allegro con fuoco, diciamo anche per noi è l'ultimo giovedì, ma non vi liberate di Do It Yourself Invasion. Continueremo a trasmettere con le nostre balbuzie. Ci sposteremo però di giorno e quindi dal giovedì ci sposteremo al martedì. Quindi il prossimo appuntamento con Do It Yourself Invasion sarà per martedì prossimo. Dalle 21 alle ore 22.30 ci prendiamo con la scusa quatti quatti mezz'ora in più, o almeno la ufficializziamo, visto che eravamo soliti depredare lo spazio di Apostasia. E quindi si sta già pensando a come inaugurare il cambio di giorno. Abbiamo già una diavoleria pronta, però ve lo annunceremo martedì prossimo. Ricordiamo brevemente i contatti della radio, partendo dal sito, quindi raggiungibile al www.ondarossa.info, sito attraverso il quale rimanere aggiornati con i cambiamenti di palinsesto. Eh sì, perché in vista del quarantennale di Radio Onda Rossa del prossimo 24 maggio 2017, e quindi in vista di questo appuntamento, di questa ricorrenza importante, stiamo rivoluzionando un po' il palinsesto con nuove idee, nuovi spazi. E quindi dai, è sempre a sostegno di Radio Onda Rossa, quindi sempre attraverso il sito potete sostenere questo progetto andando a cliccare su sostieni. e sarete indirizzati ad una pagina con tutte le coordinate per appunto sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Oppure potete farlo attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Ma è dato degli acidi buoni che vengono dall'Olanda. Via dei Volsci 56 00 185 Roma San Lollo. Sento Betta che tossisce mentre vedo il mondo a strisce, la tua faccia multicolore. Ricordiamo l'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. E ora mi sale più leggero e poi si va fuori. Oppure l'email della trasmissione. Potete scrivere a Do It Yourself Invasion al seguente indirizzo fantasma@ondarossa.info. Entriamo in camminata lunare. Indirizzo dove sottoporre le vostre segnalazioni per iniziative. Ci vedete avanzare, Marisa mi tira in un portone e si fa baciare in un arcobaleno. Oppure non appena esce la vostra autoproduzione, insomma, fatecelo sapere. Vicino a fare l'amore, ma senza fare. Questo spazio sarà ben felice di. Che domani deve andare. Di avere le vostre cose in scaletta. Mi sveglio, sono solo. Quindi fatevi sentire. Gli occhi, la luce. Persino il bianco del lenzuolo. Poi abbiamo quasi concluso, insomma, però un'ultima indicazione per poter sostenere Radio Onda Rossa. Il metodo che ci piace di più è quando partecipate in tante e tante alle nostre iniziative di autofinanziamento. La prossima ci sarà questo sabato 8 di ottobre. Sì, per non farla più scappare e vivere come in un nido di serpenti con le unghie al CSOA Spartaco. Aggrapparsi per non farla in via Selinunte 57. Scappare per non farla più scappare, per non farla più scappare, per non farla più scappare. E quindi con un'iniziativa incentrata. Incentrata appunto sulla lotta dell'uso di animali all'interno dei circhi. E quindi dalle ore 21. Dalle ore 21 circa, a seguito di una cena vegana, ci sarà la proiezione di alcuni filmati selezionati dalla trasmissione antispecista di Radio Onda Rossa in onda ogni due lunedì dalle ore 21 in poi, che è Radio Possum. E poi a seguire con i concerti dei Repressione da Bologna, Light Bob da Ostia, e dopo quasi due anni dall'ultimo concerto qui a Roma organizzato da Radio Onda Rossa, tornano i Kalashnikov Collected da Milano. Mentre nel frattempo passa l'EP dei Frontiera, che è ti ho visto in piazza. Questo è uscito nel 2004. Una coproduzione di We Confondo, appunto, di Sergio Milani, la Rumblefish Corporation, Oxford Records di Genova e Annexia, sempre di Genova. Vabbè, insomma, dagli ascolti dell'ultimo mesetto avrete capito che siamo stati quest'estate ad Aosta e siamo andati a depredare le rimanenze della Blue Bus. E che fai? Stai lì dopo una passeggiata sui monti, vai a spulciare nell'archivio della Blue Bus. Questa sera iniziamo con una selezione dedicata ai gruppi che parteciperanno all'iniziativa di autofinanziamento di sabato. Iniziamo con i Repressione da Bologna, qui dal loro ultimo lavoro Rumore e Rabbia. Ci facciamo una bella tripletta e quindi ci ascoltiamo in serie La Pioggia 13-12 e chiudiamo con una cover dei Contrasto, Mai Più senza Fucile. E quindi buon ascolto, loro sono in Repressione. Oh, Vedo una nave con grandi vele sull'albero maestro. E dalla poppa penzola una canoa. Non è che la tua immaginazione. Quale nave può spingersi fin qui? Abbiamo tutti la febbre. È un'allucinazione. Si dice che questi sono segni che indicano l'approssimarsi della fine. Bene, molto bene. Allora, questi che abbiamo ascoltato erano in repressione per la prima volta a Roma, mentre sotto vanno i Collapse da Firenze. Allora, ascoltando ieri la mia radio preferita, che so, magari riuscite ad indovinare qual è. Sì, durante 25 O'Clock abbiamo sentito, insomma, i radiofonicissimi Light the Bob. Nulla da togliere all'altro collegamento fatto da 25 O'Clock con i Kalashnikov. Bene, bene, c'è fermento, c'è fermento. Allora, noi passiamo adesso un pezzo da Super Mars, Big Fuff, che è l'ultimo lavoro dei Light the Bob in formato fisico, perché potrete trovare sul loro sito, vabbè, cercate su internet Light the Bob, anche perché al momento, ah, eccolo qua. Quindi www.lightthebob.net, potrete trovare anche altri lavori, registrazioni di live e quant'altro in formato digitale, mentre questo, come dicevo, è l'ultimo lavoro uscito su supporto fisico ed è una bella edizione, un CD cartonato, veste grafica curatissima. Quindi Light the Bob, Sex Skywalker al basso, Obi-Wan Kenobi alla batteria. E ci ascoltiamo la quinta traccia di questo lavoro, che è I ragazzi dell'Ontario. Buon ascolto! Sempre in senso orario, no, non perdo mai. Sono e coraggiosi girano sempre in senso orario. I ragazzi dell'Ontario, ma non perdo mai. I ragazzi dell'Ontario, no, non perdo mai. Girano sempre in senso orario, no, non perdo mai. Sono forti e coraggiosi, girano sempre in senso orario. I ragazzi dell'Ontario, no, non perdo mai. I ragazzi dell'Ontario, no, non perdo mai. Girano sempre in senso orario, no, non perdo mai. Sono forti e coraggiosi, girano sempre in senso orario. I ragazzi dell'Ontario, no, non perdo mai. E colgo l'occasione sia per ringraziare i Repressione che insomma ci tenevano proprio a suonare per Radio Onda Rossa quindi ci fa doppiamente piacere avere loro da Bologna qui per noi. Come ringraziamo già da adesso i Light the Bob. Vabbè, insomma, se siete a Roma non potete non conoscerli. Per le loro attività musicali dirette e indirette. Insomma, ci stanno dando una grande mano ad allestire il tutto. Quindi grazie sin da ora ai Light the Bob e ZK Squat, all'Ateneo Squat, nonché a Claudietta, grazie. Ed iniziamo la tripletta dedicata al Kalashnikov, ai Kalashnikov Collective. Qui da un lavoro uscito nel 2010. Non sono loro, No, stavo verificando perché questo dischetto qui ce l'ho in versione CD mentre è uscita anche su vinile. Dovrebbero essere usciti tutti e due nello stesso anno. Sto parlando di Living in a Psycho Chaos Era, Vivi in un'era di caos psichico, E noi abbiamo qui appunto la versione in CD che vabbè, sempre curatissima come tutte le loro produzioni, e quindi una confezione apribile dove ci sono ben due libretti con grafiche e racconti, veramente un prodotto voluminoso. E appunto ci ascoltiamo da Living in a Psycho Chaos, era la quinta traccia, che è Angoscia Rock. Loro sono i Kalashnikov Collective e li potrete vedere sabato. Non seguiamo una linea temporale in questa, in questo trittico, perché torniamo indietro di 3 anni, al 2007, con l'uscita di Dreams for Super Defeated Heroes, e questa è sempre una quinta traccia, Margini non codificati. We'll be right back. facciamo un altro balzo temporale, perché passiamo un brano dall'ultimo lavoro, L'algebra morente del cielo, disco che, insomma, se siete capitati per il banchetto di Radio Onda Rossa negli ultimi tempi, l'avrete sicuramente notato. Eh sì, perché è un disco uscito in coproduzione con tantissime realtà a livello nazionale ed internazionale. Tra cui anche Radio Onda Rossa. Questo è uscito nell'aprile del 2015, mentre ci anticipano che uscirà il prossimo lavoro dei Kalashnikov Collective a dicembre. Qui appunto dall'algebra morente del cielo ci ascoltiamo la terza traccia omonima. L'ombra che vedi lassù. Eh sì, questa era la title track, come dicono quelli bravi. E nel dirlo non, cioè, non significa che sono bravo, ma appunto la traccia omonima dall'ultimo lavoro dei Kalashnikov Collective. C'è chi si emoziona all'ascolto. Un saluto ed un abbraccio ad Elena. E vabbè. Allora, Kalashnikov Collective, ripetuto da questi microfoni, sperimentato da questi microfoni, è un progetto trasversale che va a toccare diverse sfere dell'arte, non solo quella musicale. E a chiusura di questo trittico andiamo a presentarvi una delle loro produzioni. Una collaborazione con un progetto che si chiama 15 Desideri. Su testi di Alda Teodorani, anche questa è una coproduzione internazionale. Tra le varie distro ed etichette che hanno coprodotto questo lavoro, che è una serie di racconti appunto di Alda Teodorani, musicati da un sacco di musicisti. Tra i quali anche i Kalashnikov Collective. Colgo l'occasione per ricordare che nell'iniziativa di sabato 8 ottobre, in quella del CSOA Spartaco, via Selinunte 57, le distro saranno le benvenute. Magari scriveteci una mail o telefonateci, giusto per farci organizzare. Tra le distro che ci hanno contattato, una è appunto Deny Everything, che ha partecipato a questo progetto. Noi vi passiamo adesso una traccia appunto da questo lavoro, che è 15 Desideri. Veramente bello. Con un bel libretto appunto, con tutti i testi e grafiche originali. E noi ci ascoltiamo la traccia dei Kalashnikov Collective. Certi parrucchieri lavano i capelli alle signore, in saloni di bellezza saturi di profumi e di essenze. C'è un rapimento particolare quando si appoggiano i piedi sulle gambe dell'estetista perché li massaggi con oli essenziali. Mi abbandono totalmente quando, prima di scendere in piscina, mi lascio esplorare dalle mani esperte di un massaggiatore che tratta i miei muscoli come tanti piccoli gatti, pronti a tirar fuori le unghie alla prima mossa sbagliata. Ho lunghi capelli e pelle di seta. Ti piace tracciare percorsi con le tue dita sulla mia pelle, viaggi immaginari nel cielo del mio ventre. desiderato che ti prendessi cura di me, di tutto il mio corpo, per prepararlo al sesso con te. Vorrei stendermi insieme a te in una grande vasca di acqua tiepida e che tu mi lavassi i capelli, pettinandomi a lungo, dolcemente. Vorrei che mi lavassi teneramente come una madre lava il suo bambino, insinuando le mani nelle pieghe del mio corpo e assaporando i miei fremiti ogni volta che con le tue dita di musica sfiori gli accordi più segreti del mio piacere. Ho desiderato appoggiarmi al tuo corpo e farlo aderire al mio mentre mi asciughi, quasi impedendoti di muoverti con i miei baci e le mie carezze, e continuare a farlo mentre mi tagli le unghie con le forbici e dopo averle limate le dipingi di rosso sangue. Vorrei un lungo massaggio, tanto lungo da risvegliare tutti i miei sensi, in modo che il mio corpo, la pelle, si mettesse a urlare per la voglia di te. Quindi questo era il brano di Alda Teodorani, musicato dai Kalashnikov Collective. Magari questo lo dico adesso, ce lo ripromettiamo magari come radio. Ci conosciamo. Niente, sarebbe molto bello far uscire, che sapevo da sempre, su supporto fisico. Esatto. I racconti musicati dai Kalashnikov Collective, trasmessi da Do It Yourself Invasion. Ti ha incrociato il nostro cammino. E quindi la butto lì. Nuovi indizi. Poi ci lavoreremo sopra. Questo. Promesso, promesso. Difficile e solitario. È l'unico che. O poi esperienza radiofonica dei Kalashnikov Collective che. Tra domani. Eppure viaggiano paralleli nella stessa direzione. Che continua sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, sì, perché i Kalashnikov Collective hanno una trasmissione tutta loro, dal nome La Casa del Disastro, in onda il giovedì dalle 20 alle 21. La prima puntata è andata in onda questa sera, è una la prima di due puntate sul punk giapponese. Il progetto che ho desiderato non sapere chi sei continuerà per tutta la stagione. Ho desiderato incontrarti la prima volta e farmi seguire da te su strade che non abbiamo mai percorso. Quindi bene bene bene. Albergo squallido. Oh, e a proposito di radio, noi facciamo gli auguri per la nuova stagione con l'albergatore di Sporco Dentro, la trasmissione sulla web radio di Basata Crema, che è Radio Croda, che ti spinge a venire con me. Quindi Valve & Company, in bocca al lupo per questa nuova stagione. Dai, dai, dai. Sporco Dentro, The Organization of Noise, in onda ogni mercoledì dalle 22:30 in poi. E ci prendiamo selvaggiamente. Oppure vi potete ciucciare i podcast quando escono. Eppure i nostri corpi si conoscono. Sono una serie di valli e di colline. Cerchiamo il sito, eh? Praticamente ha un ritmo forsennato. Ho desiderato prenderti così. Allora sì, su www.radiocroda.com potrete ascoltare le repliche, i podcast. Chiudersi sotto il peso. I podcast di Sporco Dentro, se proprio siete affezionati a 25 o'clock, in onda alla stessa ora sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Bella fa pum. Senza una parola. Conservare il ricordo di te nel cuore, il ricordo del mio destino. E non vederti più, mai più. Allora direi che è tutto per questa sera, 22 e 4 minuti primi. L'appuntamento con una nuova puntata di Do It Yourself Invasion non sarà tra 7 giorni, ma tra... Oddio, facciamo il conto, eh. tra 5 giorni. Sì, in onda il martedì. Appunto, il prossimo appuntamento è tra 5 giorni, quindi dalle ore 21 alle ore 22:30 circa. Avevo desiderato improvvisamente assaggiarti. E quindi un ringraziamento a tutti e tutte all'ascolto. Il nostro saluto più caro va a tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Un abbraccio. Nutrirmi con la tua essenza. Quindi vi lasciamo a un po' di automatico, rimanete sintonizzati su Radio Onda Rossa, perché tra poco il desiderio si compie, Dio qui. Andrà in onda una nuova puntata di Epostasia. Vabbè, insomma, non vi abbiamo raccontato l'ultima, cioè non per ultima, last but not least. Cerco quella piccola parte. Eh sì, no, ci spostiamo sia Do It Yourself Invasion che le gambe Allegro con fuoco per dare spazio dopo 21 anni di trasmissione del martedì alle compagne appunto del martedì, che si sposteranno in una fascia leggermente più ridotta, e quindi ogni giovedì dalle 20 alle 23 e qui testicoli con la punta della lingua scendo ancora, poi posso andare più a fondo, penetrarti di più la mia lingua. Allora, nel sottofondo dei racconti erotici di Alda Teodorani, va bene. Pingo ancora finché ti sento urlare e tuo capo. Noi la chiudiamo qui, allora. Verso il mio corpo cerca la mia. Buonanotte, dai.